Oddio a voi! Venite un po' qua! Avvicinatevi! Avvicinatevi! Oh, ve volete avvicinare? Non ve spaventate! So vera, eh! Mi chiamo Lina Maria Ottobrini. Ma voi chiamatemi soltanto Lina, se no famo notte. Ve voglio raccontare una storia. Ci avete tempo? Ma come no? Guarda che bella, eh! Ma come che me frega? Giusto, oggi alle storie non ci siete più abituati. Oddio! Oddio, zitti! Zitti che sta a passare custode! Shh. Se n'è andato? Ah, mamma mia! Mamma mia, che dolore di schiena! A forza di star là dentro. Vabbè, comunque voglio chiarire una cosa. È stato il Campari a farmi ce cascà. Senza di quello non ci sarebbe mai riuscito a conquistarmi. E lo sapeva benissimo, sto puzzone. A me non mi è mai piaciuto ballà. Ogni volta era una litigata con mia sorella e le amiche mie che volevano andare al barcone sul Tevere. Mamma mia, stavano 3 ore chiuse dentro al bagno. E chi s'arricciava i capelli, chi si tirava le sopracciglia, chi faceva la tinta bionda per sembrare cosa là. Come si chiama quell'attrice? Come si chiama? Ah, ecco! Alida. Alida Valli. Quant'era bella, oh. Oddio, aspetta, mo che ci penso, Valli però era un nome d'arte. In realtà si chiamava tipo Alida Maria Altenburger von Markenstein Frauburg. Ma io dico, ma uno si può chiamare così? Bah, secondo me i genitori quando hanno deciso il nome erano ubriachi. Ma che vedevo di? Io sono sempre stata un maschiaccio fin da piccola. Correvo, giocavo al pallone con l'amichetti miei del palazzo, ammazzavo le lucertole, me zozzavo tutta buttandomi dentro al fango, ma soprattutto andavo veloce come il vento con la bicicletta mia. Più veloce di tutti. Pure io c'avevo un nome d'arte. Artestaccio mi chiamavano Girardenga. Ma come che è Artestaccio? Artestaccio è il quartiere mio. È il quartiere dove sono nata e cresciuta. Dove la sora Cesira mi ha battezzato alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Testaccio. È il 20° rione di Roma. Che bello era quando ci andavamo a prendere le paste da zio in via Ginori. E mentre mia sorella magnava tutta composta, mettendolo a boccuccio a culo di gallina così per non sbavasse il rossetto, io magnavo de gusto senza paura di zozzarmi con lo zucchero a velo. Forse perché, che ne so, me lo sentivo che prima o poi con la guerra non avrei magnato quasi niente. Che cosa brutta la guerra. E dire che quel fascistone de Romolo e il tabaccaio non faceva che dì che era un affare. Sì, avevamo fatto proprio un affare, guarda. Comunque, stavo a dì. Io ero sempre la più intrepida, la più scavezzacollo. Quando ci hanno mandato la lettera a casa per far ruolare volontariamente mio fratello nell'esercito e lui si è messo a piangere perché è sempre stato un frescone per non dire qualcos'altro e piuttosto che giocare sotto muro e dà fastidio a tutte le ragazze che passavano non vedeva l'ora di poter andare a lavorare con mia madre in sartoria, sono andata da mio padre e gli ho detto «Ce vado io, a papà!» «Ce vado io! Ce voglio anna io! A fa la guerra!» Mio padre mi ha dato una pizza che ancora me la ricordo. Oppure quella volta che non ci volevano dare il pane e c'era mia sorella Assuntina con la febbre altissima che se non mangiava qualcosa moriva sicuro? Ci ho pensato io! «Asor Guido! Asor Guido! Apri! Apri! Guarda che se non apri i compiti d'italiano a tuo figlio non glieli passo più!» Lo faccio boccià, m'hai sentito? Vattene Lina, andatevene, mi son rotto. Ma che colpa mia, non posso aprire. Tanto i compiti glieli passa Giovanni. Giovanni c'ha la scarlattina. Glieli passa Andrea. Andrea c'è il fuoco di Sant'Antonio. Glieli passa Lina. Ma Lina so io, rincoglionito. Vattene ragazzi, vattene. O chiamo le guardie e te faccio arrestare. Chiama, chiama. E io sai che faccio? Lo sai che faccio, Sor Gui? Vado a dire alla Mazzucchini che tuo figlio non c'è venuto al sabato fascista, così dopo domani gli mette 3, eh? Oh, disgraziata, ma che vuoi, dimmi, che vuoi? Un mezzo filone e 2 uova, grazie, che c'è sta Assuntina che sta male. Grazie, Sor Gui, troppo buono. Salutatemi a Soreda. Piavo il pacchetto, lo mettevo dentro alla borsa, inforcavo la bicicletta e man mano piavo velocità. Sui San Pietrini era un po' difficile all'inizio, devo dire. Sembrava di fare le corse a ostacoli. E ogni volta, siccome mi sbatteva il sedere sul sellino, tornavo a casa piena dei lividi. Poi, invece, ho capito come dovevo fare. Mi alzavo poco poco e piegavo la bicicletta al movimento delle gambe. Casca una volta, casca due volte, casca tre volte. Alla decima mi ero imparata a mantenere perfettamente l'equilibrio. Non si può descrivere la sensazione che provavo sopra la mia bicicletta. Man mano che prendevo velocità e superavo il lungotevere d'Estaccio, giravo per la via Marmorata e me buttavo su via Nicola Zabaglia per arrivare fino a piazza Santa Maria Liberatrice, guardavo il cielo, disabitato dalle ingiustizie che ci toccava subì tutti i santi giorni. Sentivo il vento che me carezzava i capelli, me soffiava sulla gonna, sulla camicetta, e il sangue me veniva al viso e me sentivo libera, libera, libera da tutto. Alla scuola ero brava, soprattutto in italiano e storia, ma odiavo come la peste la matematica, la ginnastica e i lunghi sermoni su Mussolini, che a scuola ci avevamo vicino a Gesù Cristo. Al sabato fascista non ci andavo mai. Mi salvavo perché c'avevo un'ottima memoria e chiedevo sempre a Nilde, la portiera, tutto quello che era successo, così glielo potevo dire alla professoressa Mazzucchini, che prima di iniziare le lezioni, puntualmente lunedì, ci interrogava e voleva sapere esattamente tutti i discorsi che faceva, manco fossimo a Leiar. E in italiano pulito e marziale, perché parlare in dialetto era proibito dalla legge. L'italiano era la lingua ufficiale del nostro magnifico stato fascista. Un giorno non ce l'ho fatta più. Mi sono alzata in piedi e ho detto di fronte a tutta la classe: scusate tanto, a noi ci promettono grandi battaglie, grandi conquiste. Ma che ci promettono se ci mancano pure i beni di prima necessità? Venisse a casa mia il grande condottiero. Oh, dice la sora Pina che ieri l'ha visto passeggiare via dei Fori Imperiali ed è svenuta. E io credo, non mangiava da due giorni. Tutta la classe è scoppiata a ride. Io ho visto la Mazzucchini prima sbiancà, poi diventa sempre più rossa, tipo sto colore qua, finché quando ormai gli usciva il fumo dalle orecchie è venuta verso di me e me stava ad arzana cinquina quando so sgusciata via e l'ho fatta inciampare sopra una cartella. È finita per aria. Quello è stato uno dei momenti più emozionanti di tutta la mia carriera scolastica. Risultato: sospesa per una settimana. E la cinquina che m'ero riuscita a lisciare alla Mazzucchini me l'ha ridata mio padre con gli interessi, mia madre e pure mio fratello, perché la professoressa sua, saputolo, s'era vendicata mettendogli 4 al latino. Necatombe. Per evitare di prendere 6 in condotta e farmi bocciare, ho dovuto pure scrivere una lettera di scuse alla professoressa, chiarendo molto bene quanto ero orgogliosa d'essere italiana e quindi fascista. Sì, ha da vedere quanto ero orgogliosa. E la cosa più brutta è stata che mio padre ha dovuto leggerla in classe, davanti a tutti. Lui, che leggeva a stento. Ma io dico, ma che c'entrava mio padre? Tornata a casa non dissi una parola a nessuno. E il giorno dopo sarebbe stato sabato, un altro meraviglioso sabato. Già me figuravo, in camicetta bianca e gonna nera, dopo il consueto saluto alla bandiera, in cui certamente il cuore avrebbe cominciato a battermi all'impazzata per l'emozione, non te dico, con tante altre gioiose ed emozionatissime ragazze, avrei fatto tante attività culturali, sportive, utili alla società, come roteare clave, bandiere, mazze, o altrimenti, come era più probabile, con tutta la famiglia sarei stata in piedi in mezzo a una marea umana a battere le mani come un automa, e magari avrei incontrato l'Andreani o peggio ancora la Mazzucchini, tutta in gingheri e col naso in aria, che cantava stonando addio giovinezza. Nilde, la portiera, che non se ne perdeva uno, mi avrebbe detto: e che è successo, Ni? E com'è da ste parti? Che c'hai? Erode sgonfie? Erfio, Benito, che era innamorato di me da quando eravamo creature, brutto porello, con occhio che gli mandava a fanculo quell'altro, che se lo incontravi di notte te spaventavi, me se sarebbe appiccicato come il miele sulle dita. Lina, senti, ma quando finisci scuola? Così te sposo? A voglia ancora. Ma come? Non finisci l'anno venturo? Speriamo che non mi rimandano. Ma se c'hai tutti 8? Sente provavano a te, Lina mia. Ma mica è detto, potrebbe succedere tutto. Ma che deve succedere? E comunque io sarò sempre qua ad aspettarti. Sì, sì, aspetta e spera. Che dici lì? Niente, dicevo, ammazza, oh, è primavera. Infatti. Ah, ma te immagini quando sarai mia moglie? Vorrei fa 6 o 7 figli. Così piamo il premio delle famiglie numerose e li famo diventare tutti lupacchiotti, eh? Che c'hai lì? Te vedo strana. No, niente, è un mancamento. L'emozione. Scusami un attimo. Era troppo. Uscì di casa, senza di una parola, con le lacrime all'occhi, e come sempre mi succedeva quando ero triste, presi la bicicletta e iniziai a pedalà. E mi sembrava che ogni colpo di pedale fosse un colpo che davo a tutte le angherie del destino. E il pizzicarolo, che non ci dava mai il pane, nonostante fossimo tra la clientela di fiducia ed esibissimo la carta annonaria con tanto di tessera, a tiè, una pedalata. E il fruttarolo, che ogni volta fregava mio padre dei 4 o 5 lire con la scusa che era mezzo sordo, tiè, un'altra pedalata. La Mazzucchini, che aveva umiliato mio padre e me, tiè, pia de sta buca e spacca delle corna. Man mano che aumentando la velocità me lasciavo alle spalle il quartiere e piavo il Lungotevere, me cominciai a sentir meglio. Arrivai a via delle botteghe oscure, che era quasi l'ora del coprifuoco. Me fermai davanti alla libreria del Sor Venanzio, un caro amico di mio padre che m'aveva visto cresce. Era un omaccione alto, barbudo, con gli occhi piccoli piccoli, che quando rideva diventava tutto rosso, e per questo tutti lo chiamavamo Mangiafoco. Andavo sempre da lui quando mi sentivo triste e lui mi faceva sempre tornare il sorriso. Guarda, guarda chi se vede. E beh, ancora girini? Ma guarda che alle 7 c'è sta il coprifuoco. E mi ammazzassero, tanto per quello che serve vive. Ma che stai a dire, ragazzi? Non lo dì manco per scherzo. Sei così giovane, stai nel fiore della vita. Che te è successo? C'ho i pensieri, Sor Venà. Che pensieri ci avrai mai? Il pischello che non ti telefona o non ti scrive fermo posta? Un brutto voto a matematica? Sì, capirai. Tanto le lettere ce le leggono, le telefonate ce le controllano, e a scuola è più importante sapere con chi ha mangiato Mussolini piuttosto che le date delle guerre puniche. Shhh! Ma che sei scema? Zitta! Guarda che pure i muri ci hanno le orecchie. Il Sor Venanzio aveva smesso di ridere e mi guardava con una faccia molto seria. Che te succede lì? Che me succede? E che mi sembra tutto una gran manfrina, una gran presa per i fondelli, tutto quanto. Mi sembra che siamo diventati tutti burattini, tipo quelli del Gianicolo. Te ricordi che ci andavo sempre da piccola? E come non mi ricordo? Te ci portavo io con tuo padre, per farti vedere meglio te mettevo a cava cecio. Te ricordi? Sì. Beh, ecco, per quanto mi sforzi, ci stanno certe cose che non capisco e non capirò mai. Per esempio, ma perché a scuola, fin da creature, ci fanno crescere col mito del bravo soldato che deve crede, obbedì e combatte per la patria, e i libri de favole sono libri mascherati da propaganda? Perché devo adorare il duce come se fosse Dio sceso in terra? Perché me devo sciroppare tutti gli ultimi bollettini di guerra, se no più 4? Perché il governo sta a compiere queste imprese così grandiose e stiamo tutti con le pezze al culo? E poi c'è tutta sta assurda questione degli ebrei. Anche se sono una ragazzina, certe cose le capisco pure io. Ma che c'entra la coscienza morale con la discriminazione razziale? Pure mio padre lo dice. Perché devono perseguitare gente con cui fino all'altro ieri andavano a braccetto? A me mi parono matti. Sor Venà, l'altra notte in via Ardo Manunzio hanno sfasciato la vetrina del negozio della compagnuccia mia d'infanzia. Forse l'avete vista qualche volta. Si chiama Clara. So Giudì. Vendono stoffe e tessuti. Gli hanno portato via tutto. E il giorno dopo ci fosse stato un cristiano, uno, che gli ha dato una mano. Eppure il quartiere nostro è un paese. Se conosciamo tutti, da sempre. Niente. La gente passava davanti a quell'inferno dei gocci, vetri, stracci, facendo finta di niente. Boh! E lo sanno tutti che sono stati il gruppo dei fasci capitanati dal Patacca. L'ho visti io. Eppure tutti, a cominciare dalla sora Cesira, dicono che giovanotti come quelli dovrebbero starci ad ogni angolo di strada. Perché essere un bravo italiano vuol dire essere un bravo fascista pure se sei un delinquente? ma soprattutto perché, a parte oggi che è sabato, so costretta a vestirmi de nero come se me fosse morto il gatto. E il sor Venanzio rimase in silenzio per qualche minuto, con la faccia rossa e gli occhi piccoli piccoli. Me stavo a mette paura. Mi dispiace, sor Venà, magari so io che sbaglio, forse tutto questo è giusto, so io che ho la testa galla, forse sbaglio io, sor Venà, perché a me non mi piace correre a tempo d'entrare inquadrato, ma farlo all'aria aperta in un parco. Tutto st'ordine, ste file, ste braccia che si alzano, ste mani, st'aria che respiro, ecco, a me mi sembra un ordine malato che sa de morte. E il sor Venanzio continua a tacere. Mannaggia la miseria, oh! Parlate però, sor Venà, che c'avete? Ho fatto errori di italiano? Vero del culo, che dobbiamo fa? Lui con un mezzo sorriso sulle labbra s'alzò. Chiuse tutte le imposte, una per una. Mo che vuole fa questo, pensai. Mi fece sedere, accese la luce e finalmente parlò con un filo di voce. No, Lina, non hai fatto nessun errore di italiano. Hai detto tutte cose giuste, sono d'accordo con te. Hai ragione. Darei la vita per riuscire a darti una sola risposta sensata. Sei come una figlia per me e i genitori dovrebbero rispondere a tutte le domande dei loro figli, ma io non posso. Non lo so perché ci siamo trovati invischiati in tutto questo. Non riesco a capire. Quando ero un ragazzo, l'Italia era fiera di essere un paese libero, anche se da poco. Dove tutti potevano leggere e pubblicare giornali, scrivere e dire ciò che volevano. Esisteva un Parlamento, esistevano le idee. Ora invece ci hanno sequestrato tutto, pure l'aria. Non so perché sono arrivati a questo. Forse l'Italia era un popolo stanco di sentirsi inferiore. Forse la crisi di valori, la perdita d'ogni certezza ha portato tutti ad aggrapparsi disperatamente ad un ordine. Un sistema di cose, anche se sbagliato, perché è più facile quando qualcuno ti dice cosa pensare, cosa vestire, in cosa credere. È faticoso farlo da soli. Avevano tutti bisogno di un capo, e forse anch'io avevo un bisogno irrazionale, mistico, di sentirmi parte di qualcosa, qualcosa per cui valesse la pena vivere. Eravamo tutti così umiliati di non essere mai all'altezza, così fragili, soli. C'era bisogno di qualcosa di totale, di estremo, di vitale. Carpe diem, prendi l'attimo. Ero così deluso, così arrabbiato per ciò che il comunismo, che avevo abbracciato con una volontà quasi incredula, aveva promesso e non aveva mantenuto, che in un primo momento questo vento di novità, questa ebbrezza, questo attivismo stava travolgendo anche me, con il suo ostentato amore per il popolo, le sue speranze di rivoluzione. Ma ci misi poco a capire che era tutto un bluff. Una mattina mi svegliai, mi guardai allo specchio e mi sentii esattamente come Pinocchio e Lucignolo la mattina dopo aver gozzovigliato ed essersi rimpinzati nel paese dei balocchi, con due orecchie d'aciuco grosse così sulla mia testa, tutta rintronata che manco il giorno de carnevale. E infatti era tutta una mascherata. Ho aperto le finestre ed eccoli là. Erano tutti in fila, impettiti, lo stesso braccio alzato, gli stessi occhi pieni d'egoismo, d'arroganza, di voglia di riscatto, la stessa smania disperata d'essere e dunque appartenere. Urlavano di voler difendere i loro interessi lesi, di voler proteggere le loro famiglie, di voler distruggere, annientare chiunque non la pensasse come loro. E Dio mio, vomitavano luoghi comuni sugli intellettuali, i froci, le donne e soprattutto gli ebrei e la purezza della razza, alla ricerca nevrotica di una fisicità perfetta, mens sana in corpore sano, come dici tu. Solo apparentemente felici e liberi, in realtà rinunciando all'identità in nome della paura, dell'ansia, del vuoto crescente dentro e fuori di loro. Ho rinchiuso la finestra e ho capito soltanto che io, con tutto questo, non c'entravo niente. E poi? E poi niente. Come niente? Niente. Alla luce del giorno. Ma che vuol dire? Ma sor Venà, dopo tutto sto gran discorso, che momenti mi fate piagne, niente. Mi ci avevate fatto quasi crede. Ma in cosa, Lina? Ma che ne so, in qualche cosa che mi renda libera. Ma nessuno è più libero, figlia mia, l'hai detto pure tu. Ormai questi controllano tutto. E quello che hai detto su Giudì è vero. Qua Sor Venanzio abbassò ancora più la voce. So anni che vado a Piazza dell'Unità, via Cola de Rienzo, dove c'è sta un mercato. Lo conoscevano tutti, Cappuccetto Rosso. Un omone arto, arto, che c'aveva un banco dei vestiti da poco, robetta. Però ci si trovava sempre una buona occasione. Io lo conoscevo, a Cappuccetto Rosso, gli volevo bene. Un par de volte se siamo presi il caffè. E il suo sogno era annà con la famiglia al mare delle Puglie. Era un sogno come un altro, un sogno qualsiasi. Non l'ha potuto realizzare. Qualche giorno fa i tedeschi hanno fatto una retata e se li so portati via. Sai perché? Erano ebrei? Sì. E credimi, erano le persone più inoffensive di sto mondo. Ma perché st'odio improvviso? Sta paura che la nostra razza italiana si estingua o peggio ancora che se contamini. Sto nazionalismo esasperato mi pare privo di senso e non mi pare farina del nostro sacco. Come vedi, c'ho tanto da parlare pure io. E c'ho tante domande a cui ancora non ho risposto. Ma mo che c'è sta la guerra non conviene parlare a sproposito, altrimenti ci rimetti e basta. Bisogna pazientà e sopravvive. A Sor Venà, ma l'avete capito o no? Io non voglio sopravvive. Voglio vive e voglio essere felice. E non lo posso essere se non mi sento libera. A me non mi è mai piaciuto aspettare. Ho sempre pensato che se vive una volta sola. L'altra notte mi sono sognata che ero dentro una stanza buia, molto buia e fredda, e che ci avevo paura perché non riuscivo a vedere niente, né muovermi. Ero come legata a qualcosa che non riuscivo a vedere nell'oscurità. Poi, a un certo punto, una luce bianca, calda, mi avvolge. Quegli invisibili lacci si sciolgono e io, tutta vestita di bianco, inizio a ballare come una specie di bambola senza fili, come se una forza soprannaturale mi tirasse su per i piedi e le gambe. Riuscendo a illuminare tutto, riesco ad andare verso l'unica finestrina semiaperta di quella stanza buia. Mi domando come faccio per uscire, perché sono grande e quella finestra è piccolissima. Poi però comincio ad avvertire che sono fatta d'aria e che il mio corpo non pesa più. Finalmente riesco a trapassare quella finestra senza difficoltà e mi ritrovo sopra il Gianicolo, davanti a me, il cielo di Roma. Mi sono sentita così felice a risveglio che quasi non mannava più d'arzarmi dal letto. Il Sor Venanzio, che mi aveva ascoltato attentamente, con la fronte corrugata e gli occhi piccoli piccoli, disse: «A ragazzi, m'hai convinto? Aspettami qua». Si alza e sparisce dietro una porticina. «E che è sto coso?» «Ragazzi, se lo dici in giro siamo morti tutti e due. Ma so adesso che dopo tutto quello che mi hai raccontato, sognato, immaginato, lo potrei capire bene. E forse oggi non sei venuta da me per caso. Sappi però che la libertà non è un gioco. Prima di tutto è responsabilità. Non tutti riescono a essere davvero liberi, forse perché ci hanno troppa paura di spingersi fino in fondo. Ma tu no. Tu c'hai la faccia pulita, gli occhi aperti, vivi, a differenza di quelli della gente che vedo passare tutti i giorni per strada. Quelli c'hanno l'occhio paghi, non si capisce manco di che colore so, perché c'hanno il colore della rassegnazione. Invece gli occhi tua so belli, perché non hanno mai smesso di meravigliarsi. So infiniti, proiettati verso il futuro. So occhi che pensano, che hanno capito che bisogna cercare in noi stessi la forza per superare il vuoto spirituale di quest'epoca. Ne ho visti tanti altri così, occhi dei giovani come te, che stanno provando a costruire giorno dopo giorno il loro futuro incerto. Un futuro dove, a differenza della mia generazione e dest'epoca sciagurata, la libertà di pensiero non sarà più un regalo, ma un diritto. È un lavoro sotterraneo. So come le formiche stanno a preparare le provviste per il lungo inverno del nostro paese. Il nostro è un paese fermo, Lina, fermo, rigidamente arroccato su antichi privilegi. E invece tutto è mobile, stabile, fluido, anche la verità. E alla verità si arriva solo con la conoscenza. Sti ragazzi studiano, si informano e poi scrivono tutto, battendo a macchina sotto i letti per non farsi sentire. E una volta che hanno scritto, danno quei fogli ai loro soldati, perché ce l'hanno pure loro i soldati. E questi li vanno a distribuire per la città, sulle panchine, sulle sedie dei caffè, sulle circolari, sul tramvai, alla gente, per far sì che aprano l'occhi. Tutto questo si chiama resistenza. E chi sono sti matti? So persone che hanno scelto di non essere indifferenti e che hanno capito che vivere adesso significa essere partigiani. Fanno parte del movimento Giustizia e Libertà. Vogliono far cadere questa dittatura che ci sta portando alla rovina e farci di nuovo essere orgogliosi d'essere italiani. Le cose stanno cambiando, non ci possiamo più tirare indietro. Ah, se è fatta una certa, è meglio che vai. Non posso dirti nient'altro. A questo punto dipende da te. Se sceglierai di farne parte, basta che torni domani qui dopo la scuola e ti dirò cosa devi fare. Se invece non vuoi, basterà che non parli mai a nessuno di ciò che hai visto o sentito oggi qui e ognuno di noi andrà per la sua strada. Tutto chiaro, Lina? Sì. Ora vai, se è fatto tardi. Sorverà, senta! Mi sentivo come se avessi preso una trambata, avevo gli occhi stanchi e rossi per la semioscurità della stanza, ma dentro di me sentivo una grande adrenalina mista a uno strano senso di potenza e fu quello che mi diede il coraggio per chiedere una cosa al sor Venanzio. Ma non è che per caso gli è avanzato qualche cosa dal pranzo? Sa, c'ho un certo languorino, so giorni che non mangio altro che pane secco e foglie di verdura rancida. A quell'omaccione gli brillarono gli occhi, si scosse tutto. Aspettami un attimo, va? Rientrò dentro a quella porticina dove era entrato prima e ne uscì con un mezzo filone dell'ariano e un mezzo pezzo di cacio. Tiè, non te ce strozzà, portalo a casa. Mamma mia, Sorvenà, ma che c'ha dietro a quella porta, oh? È il paese delle meraviglie. Pussa via, sbrigate, che te linciano, corri! Pedala! Grazie, Sorvenà, grazie! Misi tutto dentro a uno strofinaccio e ficcai tutto alla bella e meglio nella borsa. Uscii e inforcai la bicicletta. S'era fatto buio. Roma si cominciava ad accendere. Una leggera brezza increspava le acque del Tevere e sembrava che una mano, oscura e sognante, carezzasse il cielo, macchiato de rosso. A un certo punto vidi un gabbiano che volava basso. Il vento mi sferzò la faccia e un brivido mi passò su per la schiena fino ad arrivare agli zigomi. Fu in quel momento che scoprì chi ero e chi ero sempre stata. Ritornata a casa, ovviamente, trovai mia madre in lacrime per la preoccupazione e mio padre che era talmente affranto che non mi riusciva nemmeno a menà. Mia sorella stava con la sua aria da diva annata a male buttata sul letto a guardarsi le riviste del cinema. Mio fratello cercava di far funzionare la radio. Tutti a stomaco vuoto. Che se magna stasera, ma? Niente, figlia mia. Non c'è rimasto niente. Mi arso domani mattina alle 4 e vado a fare la fila al forno che riapre. Poi tuo padre si è fatto mettere da parte da Remo un po' di frutta, due ceci, qualche patata. Vuol dire che domani se magna di più. Ma io adesso c'ho fame. E tira la coda al cane che te dà pane e salame. Potevi restartene a casa invece di andare in giro dopo quello che hai combinato, disgraziata, urlò mio padre. E lasciala perdere, risparmia le energie che non t'areggi in piedi. Mettete l'anima in pace, bella de mamma. Oggi non se magna. Dici, ma? E invece me sa che stasera se magna. Con tanti saluti dal sor Venanzio. Dovevate vedere la faccia di mio padre, di mia madre e soprattutto dei miei fratelli in quel momento. Hanno cambiato colore. Per un attimo ho visto entrare il sole dentro a casa mia, pure se era notte. Ma come hai fatto? Di la verità, come hai fatto? Niente, stavo andando in bicicletta, sono passata davanti alla bottega sua, lui mi ha fermato e mi ha detto che vi voleva fare sto regalo. Che sant'omo quello! Mo però ci dobbiamo sdebitare. E come famo? Ah mamma, che te frega, poi ci pensiamo, magniamo che sennò si raffredda. E mio fratello s'avventò sul formaggio al che mio padre, che era restato immobile fino a quel momento, gli diede uno scappellotto sonoro. Ha disgraziato, ma che hai lavorato? Te lo sei sudato quel pane? Rispondi, l'hai sudato? No, papà. E allora non c'hai diritto de magnà. Senti un po', te, Lina. Tu domani, come ci sei annata, ci rivai dal Sor Venanzio e gli riporti tutto paro paro, dicendogli che noi non ci avemo bisogno di niente. Hai capito? Lo guardammo tutti con aria supplichevole. Augù, e sì buono, perché devi storcer naso di fronte ai doni della divina provvidenza? State zitta tu! Ma papà è un amico tuo, piantatela! Io sono l'uomo e io decido. Noi non avevo bisogno della carità di nessuno. Dammi sta roba, dammela! Resistete qualche ora e domani avrete tutto. Il pane e pure il companatico. Ce penso io, ce pensa vostro padre. Ah papà, ma io sto a svenì, disse mia sorella con le lacrime all'occhio. E svieni, fai tu fatiche, assunti. Ah, me fai il piacere quando te ripide, spegni le luci. Buonasera a tutti. Quella fu una notte tremenda. Stavo in camera con i miei fratelli e tutti e tre potevamo sentire distintamente i nostri stomaci che borbottavano, incazzati. Ma tutti sapevamo che se mio padre si metteva qualcosa in testa, manco se scendeva giù il Padre Eterno cambiava idea. Certo che sei proprio una cretina, se lamentava mio fratello. Ma perché non te sei mangiata qualcosa prima de che potevi e soprattutto non ci hai messo da parte un pezzetto di formaggio per noi, per i fratelli tua? Ma che non lo sai com'è? Sei bravo te, stingordo malefico. Basta, statevi zitti che mi sto a sentir male. Tra l'altro domani devo pure andare a ballare con Agnese. Mo chi glielo dice a papà? Assunti, ma come ce l'hai la forza de ballare? Ma io già tanto se riesco ad arrivarci esso. Giovani, mi è venuta un'idea. Sentimola st'idea geniale. Vado a prenderne un po'. Ma che sei scema? Ma chissà dove l'avrà messo? Quello ci dormirà sopra. No, no, per me l'ha lasciato sul tavolo. Ma che stai a dì? Ve fidate? Secondo me sta sul tavolo. Ma statene buona lì, mettete a dormire. Au, fate come vi pare, io vado. E annai. Quella sarebbe stata la prima delle tante missioni che dovevo compiere per il bene del paese. Mi sentivo responsabilizzata. Tanto vale che mi cominciavo ad abituare. Era buio. A piedi nudi, con passo felpato, attraversai la piccola parte del corridoio che mi separava dalla cucina. Per arrivarci dovevo per forza passare davanti a quella dei miei e là dovevo far proprio piano piano. Ma io al buio ci vedevo come un gatto. Ed eccolo là, il pane stava proprio là sopra il tavolo. Lo sapevo che mio padre l'aveva lasciato lì. E c'era pure il cacio e c'era pure il coltello vicino. Niente di più semplice. Lo avvolsi con cura, piano piano, con gesti misurati, drento a un canovaccio, con tutto il resto e feci per tornare in camera quatta quatta. Me girai e momenti non vado lunga. Davanti a me c'è stava mio padre, in canotte e calzoni del pigiama, con le braccia incrociate sul petto e una faccia che non prometteva niente di buono. «Beh?» disse minaccioso. Arsai poco o poco la testa, vidi Assuntina e Giorgia che stavano immobili sulla porta, vidi mia madre, vidi il cacio, il pane, vidi mio padre, sulle prime stava a mettermi a piangere perché a quel punto non ce la facevo più dalla fame manco io, riguardai mio padre, riguardai mia madre, riguardai il cacio, riguardai i miei fratelli che stavano sulla porta della camera senza poter di niente. Ma poi non lo so, sentii che nell'aria c'era qualche cosa d'estremamente ridicolo. Guardai mio padre, guardai i fratelli mia, guardai il cacio. E pensai una cosa molto profonda. Ma vaffanculo, va! E iniziai a ride proprio forte, Non riuscivo a fermarmi. E mezzo secondo dopo scoppiò a ride pure mio padre, miei fratelli e pure mia madre. E tutto finì benissimo, a pane e cacio. E se mangiammo tutti insieme, intorno al tavolo, alla faccia della guerra, della paura, dei fascisti e della miseria. Dopo quella notte, niente fu più come prima. Accettai la proposta del Sor Venanzio e divenni staffetta partigiana ed entrai a far parte dei GAP, gruppi di azione patriottica. Dissi ai miei genitori che mi aveva preso a bottega il Sor Venanzio e così tutti i giorni dopo la scuola andavo da lui, prendevo il materiale che mi dava, piavo la bicicletta e partivo, piannallo a dacchi de dovere. All'inizio ho avuto in consegna solo stampa clandestina, volantini, messaggi, ordini scritti a mano col ciclostile che mi ficcavo dentro al reggipetto, nelle mutande o nel tubo del sellino. Poi piano piano cibo, vesti, medicine, alla fine pure armi, che mettevo nel doppio fondo delle borse che mi portavo appresso. Con quel carico di roba dietro attraversavo tutta la città, da un quartiere all'altro, arrivando nei posti più disparati, cercando di correre il più possibile per non restare fuori dopo il coprifuoco. Schizzavo da una parte all'altra per portare qualsiasi cosa ai compagni del movimento, la maggior parte delle volte ignara di quello che c'era scritto dentro i messaggi. Ero cosciente del pericolo che correvo, ma ve posso dire la verità, non me ne importava niente, perché per me quella era la libertà, e non esiste libertà senza consapevolezza. Correvo da via Montevideo fino a via de Porta Pinciana, lanciavo i volantini sulle panchine di Villa Borghese, sulle sedie dei caffè di Piazza de Spagna, dentro alle cassette della posta nei portoni o al corso, distribuendoli direttamente ai passanti. A volte la gente faceva finta di non vedemme, come se fa con i mendicanti, altre volte mi dicevano: «A ragazzi, è meglio che smammi». Arrivavo da via Cavour fino alle mura di San Giovanni, discese e salite, salite e discese, veloce, col vento nei capelli, al sole che m'abbronzava il viso, o con la pioggia, tornavo a casa zuppa, dopo aver pedalato per ore, che c'avevo una fame che non ce vedevo. E il Sor Venanzio mi dava tutto quello che c'aveva da parte: pane, formaggio, uova, verdura, frutta, miele. E io portavo tutto a casa dei miei o dall'amici cari, da Clara, da Settimio detto Spizzichino, che aveva 6 figli e non li riusciva a sfamare, ai Robbi Vecchi in via Galvani numero 9, una famiglia d'ebrei che vivevano nascosti nel retro bottega per paura delle retate, e lo sapevo solo io. Me sentivo d'essere custode di tanti segreti preziosi, e questo mi faceva sentire importante, pure se ero sempre stanca, avevo dolori alle ossa e la mattina in classe mi si chiudevano l'occhi. Ma ero felice. La mia reputazione era decisamente calata nel quartiere. Ormai mi consideravano tutti una sbandata, una poco de bono. Il Sor Guido, che aveva magnato la foglia, non mi rivolgeva più la parola. Benito, il figlio della portiera, che chissà che gli aveva detto la madre, mi aveva torto il saluto. La congrega dei soceri e malelingue che si radunavano nel cortile del palazzo mio, quando andava a ritirare i panni in terrazza, appena salivo smetteva de parlare e mi guardava scuotendo la testa con aria di disapprovazione. Sapevo di rischiare la vita dentro a quel gioco, è vero, ma era l'unico modo. Noi ci credevamo. E poi, quando si è giovani, si pensa di essere eterni. Come quando incontrai Giorgio al barcone sul Tevere. L'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparti al cuor, povero amore. Se non fosse stato per mie sorelle e le amiche mie, che vedendomi pallida ed emaciata mi volevano far svagare un po', non ci sarei mai andata. A un certo punto, mentre stavo a chiedere un Campari, sentii una mano calda e forte sulla mia spalla. Mi girai e vidi sto pezzo de ragazzo, alto, moro, con gli occhi verdi, che mi guardava e sorrideva. «Ti sei fatta male?» «Scusa?» «Quando sei caduta, ti sei fatta male?» «No, guarda, io non so caduta, penso che m'hai scambiato per qualchedun'altra.» «Quando sei caduta dal cielo, ti sei fatta male?» Ci ho messo mezz'ora a capire che mi voleva fare un complimento. «Ti va di ballare?» «Io? E chi se no? Ma sei sicuro?» Non si riusciva a fare un dialogo di senso compiuto. Io, che mi vantavo sempre di non aver paura di niente, balbettavo come una cretina. Mi sentivo piccola come un cecio, senza parole di fronte a sto giovane, bello come il sole. Anche perché io non ci avevo mai avuto esperienze, niente di niente. Non sapevo manco da che parte iniziare. Eppure lui, nonostante cercasse de fa lo spavardo, si vedeva che era tanto emozionato. A un certo punto mi prese tra le braccia e iniziamo a ballare. «Ma voi ci credete all'amore a prima vista?» «Io manco sapevo che era l'amore. L'ho capito guardandolo dentro all'occhio. Non c'è stato bisogno di dire, di spiegare niente. Ho sentito come se avessi aperto una porta, poi un'altra porta, poi un'altra ancora, e mi sono trovata faccia a faccia con la felicità. Non mi ricordo manco per quanto tempo ballammo stretti stretti. So solo che quando mi baciò e per la prima volta le sue labbra morbide sfiorarono le mie, sentì moltiplicata per mille l'adrenalina di quando mi lanciavo in una discesa vertiginosa con la bicicletta senza freni. Continuammo a ridere, a ballare, a tenerci le mani, finché purtroppo non me ne dovetti andare. Ma il giorno dopo si rivedemmo. Non mi dimenticherò mai quel giorno al Pincio, quando trepidante e a bassa voce gli raccontai del mio lavoro. Sapevo che rischiavo la pelle, io con tutti i miei compagni, ma se davvero voleva essere l'uomo mio, doveva sapere. Appena vidi la sua faccia mi resi conto che l'avrei dovuto capire subito. Anche lui lottava, da anni. Aveva visto ammazzata avanti ai suoi occhi 4 suoi amici d'infanzia dalla polizia fascista. Aveva visto buttare giù dalle scale un'anziana signora ebrea sulla sedia a rotelle e non aveva potuto fare niente. Aveva dovuto mordersi la lingua a sangue per non urlare, perché suo padre piagneva e lo teneva fermo. C'aveva solo lui. La mamma di Giorgio era morta quando era molto piccolo. Era stato allora che s'era convinto che l'unico modo di non subire la violenza era quello di rispondere con la stessa violenza, perché per lui il peggio non era la fame, era l'avvilimento dell'uomo. Era entrato nei GAP già al primo anno d'università e siccome suo padre era antipografo, ogni tanto faceva in modo di fregargli il ciclo stile per stampare i giornali che io stessa insieme ad altre formiche distribuivo. Giorgio era più estremista di me, voleva la rivoluzione, voleva farli fuori tutti. Io cercavo la libertà, lui voleva riscatto. Dopo l'armistizio del 43, Roma era stata dichiarata città aperta. Beh, tutto era tranne che aperta. Era completamente braccata, prigioniera dei fascisti, dei soldati tedeschi, ma soprattutto di se stessa, della sua paura, di quell'ostinato, inutile, vile chiacchiericcio delle masse che aspettavano alla mercé del nemico, delle spiate dei collaborazionisti che tradivano, della tessera del pane che non faceva mangiare più nessuno, della fame che rendeva tutti ancora più scartri, ancora più meschini. Giorgio era passato alla resistenza armata. E a me non mi chiedevano più di portare giornali o volantini, ma cibo per i partigiani nascosti negli scantinati o nelle case, armi e bombe a mano nascoste dentro grosse, finte scatole di cioccolatini o de ova. Era diventato tutto più pericoloso. Era sempre più difficile muoversi perché c'era il divieto di circolare con le biciclette dopo una certa ora. A Roma si viveva malissimo. La fame regnava sovrana sia in città sia nelle borgate. Se riusciva a malapena a sopravvivere. Io non mi spostavo più Roma per Roma. Arrivavo fino alla via Tuscolana, certe volte pure a Frascati. Dovetti lasciare la scuola. Era necessario. Sentivo che il tempo non ce l'avevamo più. Troppe cose brutte erano successe. Dissi a mia madre che per aiutare la famiglia avevo deciso di lasciare la scuola e lavorare a tempo pieno dal Sor Venanzio. Nessuno approvò la mia decisione, nemmeno lui stesso, ma tutti sapevano che se mi mettevo qualcosa in testa era difficile togliermela. Chi mi stupì davvero fu mio padre. Mi disse: fai quello che ritieni giusto, mi fido di te. Non me l'aveva mai detto in vita sua una cosa del genere. Rischiavo la pelle tutti i giorni, correvo da una parte all'altra, la notte non dormivo per la paura, non tanto per me, ma per Giorgio che si era dovuto nascondere ai castelli. Aveva contribuito a importanti azioni partigiane contro squadracce fasciste e ormai la polizia lo aveva definito un ricercato, uno destinato al carcere. Per non destare sospetti e non coinvolgermi, aveva proibito anche di cercarlo e di telefonargli. Non ci sentivamo e non ci vedevamo da più di un mese. Un giorno non ce l'ho fatta più e mandando tutto al diavolo ho inforcato la bicicletta e ho preso la via Appia. A un certo punto, mentre stavo a passare per il parco dell'Appia Antica, ho visto una cosa che non mi dimenticherò mai. Aveva piovuto forte e due arcobaleni insieme si davano il braccio attraverso le rovine, tagliando il cielo da parte a parte come un arco teso. Uno stormo di rondini, come se gli avessero dato il via, iniziarono a volare, tutte insieme. Restai qualche minuto a godermi lo spettacolo, poi chiusi gli occhi e sentì il profumo dell'aria e dell'erba bagnata e me l'aspirai tutto a pieni polmoni e cominciai a pedalare. senza mani. Arrivai da Giorgio che era notte. S'era nascosto dentro a una casa dei contadini. All'inizio si prese in corpo e mi rimproverò della mia imprudenza. Ma poi mi strinse forte forte al cuore e non me lasciò più per tutta la notte. Passai uno dei momenti più belli della mia vita. Ero così felice che, mentre tornavo a Roma e neanche nei giorni appresso, mi accorsi che qualcuno mi stava seguendo. Le mie giornate correvano veloci. Nessuno dei miei compagni sospettava, io meno che mai. All'inizio del 1944 la città stava nel panico, continuavano i bombardamenti e io invece di andare a rifugio con l'altri me ne andavo al prato davanti alla porta de Testaccio, dove c'era solo prato. Ogni volta non mi trovavano mai. Io non volevo stare insieme a quelli che piagnevano, non volevo fare la fine del topo. Quando hanno bombardato San Lorenzo mi sono nascosta sul terrazzo, si vedeva tutto da là. E il fascismo era debole, non poteva rifiutare i contributi dei violenti e dei sadici che si organizzavano nelle polizie autonome. In tutti i quartieri c'erano picchiatori, camere di tortura, rastrellamenti continui. Ben presto dovetti smettere di lavorare. Era diventato troppo rischioso e inoltre era un po' di tempo che non mi sentivo bene e me so dovuta mettere a letto. Al quartiere nessuno parlava se non per lamentasse del tempo e dei dolori. Anche io stavo a casa. Avevo sempre la nausea. Vomitavo di nascosto da mamma per non farla preoccupare, ma mia sorella aveva capito tutto. Sei una disgraziata, un'incosciente. Ma come fai, mo? Te pare il momento questo col monno che crolla? E soprattutto andò sta quel Bertomo? Tanto amore, e poi si è dato alla macchia. Non te permette, assunti. Giorgio me ama e appena finisce la guerra me sposerà. Fia mia, se ci speri tu, io non è che ci spero, lo so. 24 aprile 1944, me so svegliata con una fame. Per la prima volta dopo tanto tempo stavo bene, anzi me sentivo un leone. M'era venuta una voglia matta di riprendere la bicicletta, m'era mancata. C'era un sole che spaccava le pietre. Era arrivato il momento, dovevo andare da Giorgio mio. So uscita e ho salutato tutti. Me so stretta al cuore mia madre che stava in cortile con l'amica del palazzo. Ho salutato la portiera, la sora Cesira con tutte le altre. So passata dal sor Venanzio, l'ho abbracciato forte, ringraziandolo ancora per tutto quello che aveva fatto per me. Lui, che mi aveva capito al volo, mi disse soltanto: è rischioso, per giunta nelle tue condizioni. Gli dissi solo: addio, sor Venà. Quando ripresi il Lungotevere, vidi mio padre che stava attorno a casa. Mi fermai, volevo andarlo ad abbracciare, ma qualcosa me lo impedì, non so che cosa. Forse una specie di groppo alla gola. L'ho guardato allontanasse senza riuscire a muovermi. Sentivo gli occhi umidi, ma ormai avevo imparato a non sentire il dolore e ripresi la mia strada. Arrivata nei pressi del Quadraro, c'era il solito posto de blocco, con due crucchi e due camicie nere. In genere li eludevo passando per via Giulio Agricola, ma stavolta non c'avevo niente, né in borsa né nel sellino. Ero pulita e quindi gli passai davanti, sicura, ma uno de loro mi fermò. Tre de loro mi circondarono. Buongiorno, signorina. Scenda un po' dalla bici. Lei lo sa che c'è il divieto assoluto di usare cicli o motocicli in città, vero? Salga in macchina. Ma come in macchina, scusate? E il provvedimento è stato ritirato. Io ce lavoro con la bicicletta. Vendo giornali. Senza la bicicletta non posso arrivare da una parte all'altra della città. E lo sappiamo, come no, qual è il lavoro suo. Sappiamo tutto. Salga in macchina. Ma io veramente... Salga in macchina o sparo! Improvvisamente capii tutto. Qualcuno aveva fatto la spia. Solo più tardi scoprì che si trattava di Benito, il fio della portiera, che pazzo dalla gelosia di vedermi con Giorgio m'aveva seguito e aveva scoperto tutto. In macchina pensavo a Giorgio, al bambino che cresceva dentro di me da 2 mesi, e quasi mi rasserenai. Mi portarono a via Tasso, mi sbatterono dentro a una cella piccolissima e fredda, buia e piena di bagherozzi, e mi ritornò in mente il sogno. quel sogno che avevo fatto tanto tempo fa. Non lo so quanto rimasi lì, con gli occhi sbarrati a fissare il muro, senza mangiare e senza bere. Sentivo delle urla lancinanti e mi tappavo le orecchie. Mi vennero a prendere verso le 2:30 di notte e mi portarono in una specie di stanza senza finestre. In quella stanza non ve lo voglio raccontare, perché in fondo non è importante. Loro erano in quattro, io solo una ragazzina di 17 anni, piena di voglia di vivere. Ma non parlai, non dissi nulla di quello che con le più atroci torture cercarono di strapparmi. Aprì la bocca solo per dirgli di risparmiare la mia creatura. Mi pare ancora di sentirli sghignazzare. Quando ebbero finito il loro lavoro, mi ributtarono in cella. Fu lì che prima di morire vidi Giorgio. Lo vidi distintamente, pure se ormai ero mezza cieca per tutte le scariche di corrente elettrica che mi avevano attaccato sotto gli occhi. Ma era lui, alto, bello, fiero, e veniva verso di me. Era lui. Mi prese in braccio, mi avvolse in una coperta e mi portò via. Lo sentivo piangere. Le sue lacrime mi bagnavano le ferite, bruciandole. Trovai la sua mano. La strinsi. Mi sentii in pace. E così mi addormentai. Poche settimane dopo, Roma è stata liberata. Quindi tutto quello che è accaduto è giusto, no? Se è servito a farvi comprendere il senso della libertà. Perché oggi siete tutti liberi, vero? Se sono morta? No, io non morirò mai. Mai, finché ci sarà qualcuno che ricorderà chi sono, per cosa ho lottato. E se anche ci fosse una sola persona di voi che ricorderà me che corro spavalda al sole con la mia bicicletta, allora io vivrò 100, 1000, 10.000 volte. Per sempre.